lascio un margine di sicurezza tra i tuoi alibi e la mia salvezza. Faccio un passo indietro quanto basta, ma ti giuro non lo faccio apposta. È che sono come te e non voglio più soffrire. Se qualcosa non mi va, ho bisogno di capire. Il passato è cancellato, ma il ricordo quello no. E se è vero che ho imparato, ne ho bisogno ancora un po'. Fermi, sospesi, angeli indifesi, anime appese al filo delle attese. Ali spezzate da un vento troppo forte. Questa dolce morte. Comprensibile la tua incertezza, che non vedi oltre la mia bellezza. E fai un passo indietro quanto basta, in attesa di una mia risposta. E che tu sei come me, non vorresti più soffrire. Se qualcosa non ti va, hai bisogno di capire. Il passato è cancellato, ma il ricordo quello no. E se è vero che hai imparato, ne hai bisogno ancora un po'. Fermi, sospesi, angeli indifesi, anime appese al filo delle attese. Da un vento troppo forte, duri a morire di questa dolce morte. Fermi, sospesi, angeli indifesi, anime appese al filo delle attese. Ali spezzate da un vento troppo forte, duri a morire di questa dolce morte.